Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. E così alle ore 23 riapro qui il microfono della radio per così annunciarvi una nuova trasmissione targata Altroverso con Nino HDJ Misk, che vi sta parlando ora proprio da qui, via dei Volsci numero 56, zona San Lorenzo, Roma, direttamente da Radio Onda Rossa. Sto per partire con questa nuova puntata, la numero 697. Oggi è sabato 28 gennaio, rigorosamente in diretta qui da Roma, San Lorenzo, via dei Volsci numero 56. Vi ricordo 0649 1750, il numero di telefono di questa radio, poi www.ondarossa.info, il sito ufficiale, altroverso.net invece il sito della trasmissione che state ascoltando, e altroverso@ondarossa.info invece la mail per interagire con il sottoscritto e con la trasmissione. Direi che sono veramente pronto per annunciarvi una nuova puntata di grandissima musica elettronica underground. Alzate il volume e slacciate le cinture, questo è Altroverso. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altroverso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altroverso, il meglio della musica elettronica. Selezione di questo sabato 28 gennaio si chiama Charlie Banks con Say What, nella versione remixata da Lucas per l'etichetta Der Crew Recordings. Vi ricordo, state ascoltando Altroverso, altri suoni, altra musica elettronica. Adesso arriva dalla Mood Music Cruz and Nürnberg con Reminiscence. veramente una bellissima traccia questa reminiscence di Chris R. Nundberg per la label Mood Music Records, sempre di novità questa prima ora di Altro Verso assieme a DJ Misk. Adesso arriva DJ High Tech con Now Move, mixato da DJ Afitz su Love International. Love International, abbiamo ascoltato anche DJ High Tech con questa Now Move remixato da DJ Afitz. Siamo entrati un po' in versante più tribal, infatti ascoltiamo anche questa prossima traccia dalla Society 3.0. L'artista è Mario Krenmeier con Dark Industries remixato da Pino Arduini e Mono Deluxe. così, Mario Kelmire con Dark Industries, remixato da Pino Arduini e Mono Deluxe nella versione Total Tribal Remix su Society 3.0. Questo è sempre l'altro verso, altri suoni, altra musica elettronica, ore 23.17 in diretta da Onda Rossa. Vi ricordo maggiori informazioni riguardo la playlist sul sito www.altroverso.net, sito da cui potete riascoltare la trasmissione, sito da cui naturalmente potete anche ascoltare la web radio online 24 ore su 24. Adesso arriva il lavoro veramente bello su One to One Records di John Stungard, si chiama Red Moon. Yeah. One to One Records, John Sungard con Red Moon. Adesso arriva invece questa bomba della Get Physical Records. Sono DJ Leroy featuring Rolando Clark con I Get Deep, traccia storica house music di qualche anno fa, qui riproposta nella versione Late Night Tough Guy Remix dalla Get Physical. Altro verso, altri suoni, altra musica elettronica qui su Onda Rossa. I get deep, I get deeper, into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know. What to sing, what to bring, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What, chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why? Why? Why? What? How on earth are you supposed to vibe around the fake ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there, I just stare. Up in the booth at the Dread Man, spinning the song, spinning it strong, playing things like, when can our house begin? That's my shit, what? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper when people start to disappear, and it's about 6 o'clock. Woo! I'm feeling hot, take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep. When he takes all the bass out the song and all you hear is highs. And it's like, oh, shit! I get deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet. I get deep, I get deep, I get deep. Why, if house music was air, then Dr. Love would be my song, and I would only take deep breaths and fill my lungs with the rhythm, with the bass. I get deep, I get deep. About 3 a.m. and I see people going plie's, spinning, jumping, and grinding as if they had wings on their feet, raising both hands in the air as if Jesus was a DJ himself, spinning those funky, funky, funky. Ma veramente una bella bomba questa traccia Get Deep, Roland Clark, la voce inconfondibile, insomma un brano storico qui riproposto dalla grande Get Physical Records, la label di Berlino, insomma fa uscire sempre un disco più bello dell'altro. Comunque era DJ Leroy insieme a Roland Clark con questa I Get Deep remixata da Tough Guy. Adesso arriva Andy Slacker con Bakongo nella Deep Child Irradiated Dub Version su etichetta Adjunct Records. Ore 23:26, sempre in diretta qui da Onda Rossa, sempre all'ascolto di Altro Verso. Vi ricordo 0649 1750, il telefono della radio. Naturalmente vi ricordo anche l'appuntamento del Forte Prenestino per questo sabato notte, iniziativa con Radio Onda Rossa, il ricordo del Patata, il concerto degli Scream. Ma ora ascoltiamo ad altissimo volume Andy Slacker. We'll be right back. Così Andy Slacker con Bakongo su Deep Child dalla label Aggiunta Records, ultima novità di questa prima mezz'ora di Altroverso. Adesso ci fermiamo esattamente 3 minuti, arrivano gli spot e poi riprendiamo con la seconda parte di Altroverso. Sabato 28 gennaio. Radio Onda Rossa e CSOA Forte Prenestino presentano Scream in concerto insieme ai Kina, Aosta Punk Hardcore dal 1982. Intro con Saturday Radio Fever, ai controlli Shots in the Dark, Rude Boy Sound System e Daje Pure Te. Scream in concerto. A 30 anni dalla loro formazione tornano gli Scream, una delle band di riferimento della scena punk hardcore americana. Corpatata nel cuore. Sabato 28 gennaio, CSOA Forte Prenestino, 5 euro a sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Da 34 anni senza padroni e senza pubblicità. Che importanza dai alla tua casella di posta elettronica? Il tuo sito che utilità ha? Il tuo blog? La mailing list che segui? La chat? Autistici Inventati conta almeno 10.000 utenti, quasi 1 milione se contiamo le persone iscritte alle mailing list. Per esistere, per pagare i server e la connettività servono circa 12.000 euro l'anno, poco più di 1 euro per ciascun utente, se tutte e tutti si ricordassero di dare il proprio contributo. E tu, ti ricordi di dare il tuo euro ogni anno? Con un piccolo sforzo puoi contribuire a tenere acceso un pezzetto di internet libera e anonimizzante, che rispetta la tua privacy e non ti riempie di pubblicità vendendo le tue attività quotidiane in rete. Aiutaci con un versamento all'associazione Investici, conto corrente postale 29247210, specificando nella causale donazione Investici per l'anno 2012. Autistici.org, inventati.org. Comincia una nuova edizione di Entropia Massima. Il collettivo della trasmissione riprende il discorso sulle crisi globali che stiamo attraversando, utilizzando la chiave di lettura della crisi di sistema, alla quale il capitale mondializzato risponde intensificando sfruttamento e distruzione sociale e ambientale. Le tematiche dell'edizione 2012 sono acqua bene comune e dissesto idrogeologico in Italia, crisi economica finanziaria, decrescita e alternativa anticapitalistica, crisi climatica, una lente femminile e femminista sulle crisi globali. Entropia Massima, tutti i lunedì dalle 20.15 alle 21. Naturalmente sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio. No stop music. Radio Onda Rossa. 87.9 FM in Rome. Alta Verso. Così rientriamo in voce con questa seconda parte di selezioni novità di Altro Verso, ascoltando un po' di House Deep dall'Atmospheric Production, produzione di Jake Name Trouble, si chiama Slow Motion con la versione remixata da Patlak. www.altroverso.net è il sito ufficiale di questa trasmissione, da cui poter riascoltare il podcast, da cui naturalmente ascoltare anche la web radio online 24 ore su 24. Siete sempre qui all'ascolto di Radio Onda Rossa. Adesso andremo avanti questi prossimi 20 minuti con altre novità della settimana. Adesso c'è The Mechanism con Can't Believe su etichetta Need Want. Need Want Record, The Mechanism con Can't Believe, sempre qui in altro verso. Adesso dalla Get Physical Records, Smash TV con Steroids to Heaven nella versione remix di Hector. TV, versione remixata da Hector. Questa traccia si chiama Steroids to Heaven per la Get Physical Records. Adesso andiamo avanti con la prossima track, si chiama Viadrina, Do You Really Want This, remixata da DJ Cool, Deck 909 su Classe. We'll be right back. stile molto vecchio per questo Do You Really Want This per Viadrina su Classe Records. Era il DJ Cool Deck 909 Is a Joke Remix. E restiamo sempre su questo così stile molto old school, ci ricorda proprio le primissime produzioni degli anni 90, ma naturalmente rivisitate totalmente per il terzo millennio. Infatti questa è solamente musica, come dire, avant-garde proprio, neanche del presente ma proprio del futuro. Questi sono un duo francese, si chiamano Dope e la traccia in questione è Rave Forever Together su Connessor. Eh sì, Rave Forever Together su Connessor Records, erano Dope, un'altra bella novità all'interno qui di Altroverso per questa prima ora di selezione novità. Poi tra pochi minuti partirà la selezione automatica che andrà avanti fino alle 6 della mattina, dalle 24 alle 5, naturalmente con l'ascolto delle migliori tracce del momento. Poi dalle 5 alle 6 invece la zona chill out per rilassarsi. Ogni ora poi l'ascolto con il disco della settimana. Adesso arrivano Trim the Fat con Disco Head su Mind Burst Music. Okay. Disco Head su Mind Burst Music. L'ultima novità di Altro Verso, l'ultima e la prossima, è Tasse Peter con The Clipping Track su Trapez Records.